lucida e in quella forma a me come Dio, non so se ovelio dormo. La la la la la, che peccio faccio? Mia bella gente, andiamo a trovar Maria. Oh, vedo più una donna e un mascherino. Mi inganno, a quel capello che le compravo io, parmesano. Ah, sì,